via radio, una radio che a Bologna via Sebastiano Ferri, un tanto forse anche questa sera Baby Radio vi fa parlare. Bentornati amici e compagni su Baby Radio. Trasmettiamo dalle frequenze piccolissime di via Sebastiano Serlio. Siamo a Bologna, la città della libera informazione. Non abbiamo ospiti speciali in studio, ma abbiamo piccole novità per chi ci ascolta. Alla voce c'è il vostro solito amico Patrizio e vi darà qualche consiglio su come sopravvivere nella giungla disorganizzata della vostra città. Libera informazione è una piccola vincita e noi di Baby Radio vi diamo la forza per continuare a lottare. Dopo partirà un altro servizio di nostro inviato dalla strada, Ode. Baby Radio. Thank you. Baby Radio, l'unica radio libera dopo Radio Alice. Benvenuti ragazzi, compagni di merende. Oggi parliamo di un'attività fisica e mentale che tutti i compagni devono fare per riuscire a stare in piedi. Quanti di voi la mattina si alzano e non ne vogliono un cazzo di affrontare la vita, però alzi sulla tapparella e vedi che c'è il sole e ti dà la forza di andare avanti. Da quando ho letto il libro io lo faccio, il saluto al sole e sto meglio. Bisogna credere anche in quello che si fa, bisogna salutare il sole, le piante, l'acqua, bisogna essere tutt'uno con la vita, ragazzi. Baby Radio è la nostra voce. Dopo Radio Alice negli anni 70 non ho mai più sentito, almeno qua a Bologna, un emittente che desse voce come facciamo noi. Io, Patrizio, Ode, Antonio, siamo tutti riuniti per farvi sentire. Cosa vuol dire? Scusate, mi devo accendere una sigaretta. Sentite il rumore di sottofondo, è il mozzicone che mi è rimasto, che l'ho provato ad accendere un attimo. Radio. Radio ti ingrossa la busta. Ragazzi, crediamo nella vita. Oggi vi spiego come sopravvivere quando non avete soldi a sufficienza. Ho vissuto per 5 mesi insieme a dei compagni che venivano da Tangeri. Erano simpatici e mi davano la casa. Io vivevo in camera con Ahmed. Me lo ricordo bene, era tutto emaciato, era alto e magro e mi dava sempre del sostentamento. L'unica cosa che voleva è che io lo accompagnassi per via della Beverara, per via della birra, per via del fratello, in stazione, via nuovi campeggi, sui viali. Insomma, è una specie di lavoro, come se tu guidassi un taxi e però al posto dei clienti c'hai Ahmed che vuole andarsene in giro tutta la notte. Di giorno ti chiamano di 30 volte, però mi dava sempre un letto su cui dormire. Erano, ricordo, delle brandine in ferro battuto, e mi dava sempre del sostentamento. Magari non ti fa la base di darti subito 5 palline, te ne dà una, però te ne dà una tutti i giorni e tu per tutti i giorni sei coperto e non devi andare a cercare il metadone in stazione che ti tirano le culate. Anche lì adesso la Bologna è cambiata. Ai miei tempi io potevo trovarlo, non per forza andare a Sergio, lo trovavo in mezzo alla strada insieme a Ode, ed era così. Adesso immagino che ho visto i ragazzi giovani che hanno 16-17 anni che fanno delle cose tipo scippano le vecchie. Io ve l'ho detto, l'argenteria è la cosa che va di più. Prendete tutti i pezzi d'argenteria e troverete dei mercati, delle persone che le prendono. Comunque vi dicevo, vero, questo Ahmed, e io per 5 mesi ho fatto la vita, ho fatto il bacchio, no? Come si dice qua a Bologna. E io andavo un po' dappertutto con lui, mi facevo fare i giri, non dovevo fare altro che spingere sull'acceleratore. Tutto è finito perché sotto il tunnel di Prati di Caprara ci siamo capottati. Io adesso lui non lo vedo più, però sono stati 5 mesi sicuramente utili e soprattutto non ho speso una lira. Ho mangiato, ho bevuto, ho dormito, ho conosciuto gente, mi sono fatto. E secondo me è un consiglio che do ai ragazzi che non hanno voglia di affrontare la vita. La vita è bella, c'è il sole fuori, ringraziate il dio pietra, il dio sole, e vedrete che di Ahmed là fuori è pieno il mondo, almeno a Bologna è pieno. Quindi se avete un qualsiasi mezzo non esitate, passatelo a prendere, fate i giri che dovete fare e sicuramente una palla vi salta fuori, mezza palla, non lo so, ma io non ho mai mancato di rispetto ad Ahmed, e a parte che mi sono spaccato il femore perché mi caputai Prati di Caprara quando avevo la vostra età. È un consiglio che do soprattutto ai giovani: non demordete, che di Ahmed ce ne sono tanti fuori. Babbe Radio. Babbe Radio. Babbe Radio. Thank you. Buona a tutti gli amici marocchini, ascoltano Baby Radio. Andate in parte a gire in macchina, dati in malueco, volete la pallina. Uomo 2, ascolta in macchina, sempre come GTA. Baby Radio, Free Radio. Uomo 2, tutti gli amici marocchini, ascoltano Baby Radio. Andate in parte a gire in macchina, dati in malueco, volete la pallina, uomo 2, colta in macchina, sempre come GTA, Baby Radio, Free Radio. Anche Ode con servizio che tra qualche istante vorremmo partire, magari puntualizzeremo meglio. Lui ha fatto sicuramente, ha viaggiato di più di me, io sono stato solo a Bologna, però in quegli anni in Bologna per una pallina riuscivi a fartela in 4-4-8, invece lui ha dovuto girare Milano, è andato a Roma, è andato a Trani, è andato anche, credo, in Svizzera, scusa, non era in Svizzera, forse a Belgio, insomma i paesi sopra le montagne italiane. E ha girato a Londra. Londra, ragazzi, era il paradiso dello spazio. Quando alla vostra età c'era un sacco di good vibration, la gente si è sempre presa bene, e poi trovavi di tutto lì. Volevi prendere e mettivi in casa, le facevi le storie, non è, tu suonavi, chiamavi e arrivavano a portartela direttamente a casa. Qua uno si deve sbagliare, io capisco che la gente adesso ha meno voglia, c'è più disinformazione e sicuramente ci si informa di meno. E quanti ragazzi, io ho visto già di mio nipote che è andato a fare un colloquio, non l'hanno preso ed è andato subito a spendere in stazione, ha preso è andato all'ospedale perché ragazzi mi danno della merda adesso, non mi danno più della roba, mi danno della merda, la sintetizzano, non lo so, col vetro, che cazzo di loro, oh, ragazzi, buona la vita, pregate al Dio sole, l'acqua è quella che vi sostiene, fate il saluto al sole, cercate di mangiare sempre meno carne, la carne fa male, il peccato dell'umanità la carne, ragazzi. E adesso parte il contributo di Ode, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qua da via Sebastiano Serlio, Baby Radio. Senti, di nuovo si muove. Non avessi dato di noi. Fermata la stazione, sì, beh, bisogna dire ragazzo, no, niente, sì, beh, allora, mangiano, fanno quello che vogliono, e poi bisogna di suono, perché non più, meno con la pesa, deciso, dove in esame, i documenti, poi non li abbiamo. Io ho alcuni, cioè, i clack lì, io ero a bordo piano, ero un piccolo, io, ma And I am Lucifer, the devil.